giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Valle dell'idrogeno, audizioni sul progetto in commissione regionale, il nodo principale è la fattibilità. Incendio nella notte a Trieste, in uno stabile di via Campi Elisi, 3 feriti, 1 è grave. Castions di strada, giovane si barrica in casa, lunga trattativa con i carabinieri, poco fa la soluzione. Precari somministrati da reintegrare alla Flex di Trieste, per il giudice del lavoro l'azienda non poteva interrompere il rapporto. Inflazione in ulteriore frenata, a Trieste rincari al 2,4%, a Udine 1,7%. Frana di Clauzzetto, sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture che era stato richiesto dal sindaco. Basket APU Fortitudo, stasera big match al Carnera per il campionato di A2. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Anna Vitaliani. Cominciamo con la cronaca nera. 3 persone intossicate, una è più grave, ricoverata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Questo è il bilancio dell'incendio della scorsa notte, scoppiato intorno alle 3.30 al sesto piano di una palazzina di Viale Campi Elisi a Trieste. Sono rimasti coinvolti 2 donne e un uomo. Le fiamme sono state innescate, secondo le prime ipotesi, da una sigaretta accesa finita su un materasso, salvato dai vigili del fuoco un gatto che viveva nell'appartamento. Durante le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare a scopo cautelativo tutte le persone presenti nello stabile, poi sono rientrate. L'alloggio, devastato da fuoco e fumo, però è stato dichiarato inagibile. Ed è uscito poco fa dalla sua abitazione dopo una concertazione con i negoziatori dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone, l'uomo barricato in casa da ieri sera a Castions di Zoppola. Si tratta di un 28enne disoccupato già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in caserma dei carabinieri a Pordenone, dove sarà sentito anche in merito ai motivi del suo gesto. L'area circostante l'abitazione è stata isolata per motivi di sicurezza. I temi dell'economia e del lavoro, i conti di Fincantieri, il bilancio al 30 settembre è stato approvato dal consiglio di amministrazione del gruppo. Tra i numeri principali, EBIT da 276 milioni con un aumento del 60% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno e ricavi che sfiorano i 5 miliardi e 400 milioni, più 1,3%. Nel trimestre scorso sono stati acquisiti ordini per 4 miliardi di euro. Ora il gruppo ha un portafoglio gli ordini che comprende 86 navi da consegnare entro il 2030. Il valore totale supera i 22 miliardi. Il progetto della Valle all'Idrogeno arriva in Consiglio regionale e è in corso l'audizione della seconda commissione. Permangono molti dubbi sulla fattibilità. È in corso l'audizione della seconda commissione in Consiglio regionale sul tema della Green Valley, la valle dell'idrogeno di cui si parla ormai da un paio d'anni. A stimolare questa discussione in aula è stato il consigliere del Partito Democratico Massimiliano Pozzo, a cui chiedo: è soddisfatto di come sta andando la discussione? Sì, noi abbiamo chiesto l'audizione perché questo è un progetto che riteniamo importante, significativo e assolutamente apprezzabile che la Regione abbia messo assieme tutta una serie di attori del mondo scientifico e economico e che stia portando avanti questo progetto con la Croazia e la Slovenia. Però il grosso dubbio, la grossa domanda è se questo progetto, che poi economicamente ha dei costi notevoli, porterà qualcosa di veramente concreto oppure se si tratta banalmente di aria fritta. Ecco, penso che l'aria fritta non possiamo permettercela, anche perché siamo in una situazione in cui le imprese devono gestire una fase di transizione energetica ecologica non semplice, e sulla partita dell'idrogeno chiaramente bisogna portare avanti veramente progetti concreti che siano realizzabili e che portino veramente le imprese ad un salto di qualità anche sugli obiettivi della decarbonizzazione. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri particolari, altri commenti nelle prossime edizioni. Una svolta nella lunga vicenda dei lavoratori somministrati alla Flex di Trieste, una settantina che avevano fatto ricorso contro la chiusura del contratto di fornitura di manodopera. Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha riscontrato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Flex, non più con l'agenzia di somministrazione, ordinando il reintegro dei ricorrenti, risarcendo il danno e condannando l'azienda alle spese di giudizio. lo ha fatto sapere con una nota all'Unione Sindacale di Base che aveva promosso i ricorsi. Sono stati cancellati oltre 20 anni di soprusi, esulta il sindacato. Si tratta di lavoratori somministrati con anzianità fino a 13 anni, precari da una vita, che avevano iniziato il loro calvario in Alcatel, ma Flex, dopo aver acquisito lo stabilimento di Trieste, non aveva mai inteso porre rimedio a quella situazione. Sanzioni per più di 300.000 euro sono state irrogate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Udine in seguito ad una serie di accertamenti svolti in diverse aziende del territorio, in particolare per la verifica della regolare occupazione dei lavoratori, delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. Sono state sospese le attività di due pubblici esercizi, un ristorante di Tolmezzo e uno di Cividale, per gravi violazioni della sicurezza, e 7 aziende agricole per lavoro nero, 3 nel Cividalese, una a Precenicco, una a Codroipo e 2 a Cavazzo Carnico. Parliamo di prezzi, l'inflazione sembra rallentare ulteriormente a Trieste rispetto a un anno fa, i rincari medi sono ora al 2,4%, a Udine a 1,7%. Il rallentamento della corsa dei prezzi sembra essere legato alla diminuzione dei costi per i combustibili e l'energia. L'inflazione a doppia cifra di 12 mesi fa sembra ormai un lontano ricordo. Il rientro verso la normalità delle spese per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, che un anno fa erano nel pieno di un'impennata storica, riporta il dato sulla crescita dei prezzi entro limiti che fanno meno paura. E questo è vero soprattutto osservando il dato tendenziale, cioè quello che misura gli aumenti da un anno all'altro. A Trieste, rispetto a 12 mesi fa, i rincari medi sono del 2,4%, lo stesso dato un mese fa faceva ancora segnare il 5,1. A Udine siamo addirittura ad un tasso tendenziale annuo pari all'1,7% rispetto al 4,8 registrato ad ottobre. Il rallentamento dell'inflazione, come detto, è legato ad una diminuzione dei costi per i combustibili e per l'energia, in un anno calati nel loro complesso di quasi il 20% in entrambe le città. E questo calo compensa ampiamente la crescita registrata un po' in tutti gli altri settori. In particolare i prodotti alimentari e le bevande analcoliche sono aumentate di prezzo in un anno del 7,2% a Trieste e del 5,7% a Udine. E i trasporti, a loro volta, sono cresciuti in un anno del 6,8 nel capoluogo regionale e del 5,9 in quello friulano, due voci con le quali noi tutti ci confrontiamo quotidianamente, e anche per questo la sensazione comune sull'andamento dei prezzi, la cosiddetta inflazione percepita, ha senza dubbio un andamento meno positivo. Su base mensile, il tasso complessivo di inflazione a Trieste è tornato invece a crescere, sia pure dello 0,1% in un mese. A Udine i prezzi sono rimasti invece sostanzialmente stabili. Ad ottobre il tasso congiunturale era stato sotto zero di un paio di decimi di punto in entrambe le città. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Transizione digitale, gestione del rischio informatico, strumenti di finanziamento sono stati i temi al centro della tavola rotonda sulla cybersicurezza che ha fatto tappa stamane a Udine e organizzata in tutta Italia da Confindustria. Non si può più attendere o rimandare. La sicurezza OT, che si occupa della protezione dei sistemi industriali, deve essere al centro dei piani strategici del Paese e di ogni impresa. Teoricamente in Italia è tra le priorità, ma questo non è più il momento della teoria. Siamo già in ritardo, dobbiamo agire e farlo ora. Questo, in sintesi, il messaggio fondamentale emerso questa mattina in occasione del roadshow nazionale di Confindustria dal titolo Cyber Security per le imprese della regione Friuli Venezia Giulia, contesto strategico e opportunità di sviluppo. Perché se da un lato è d'obbligo cogliere le opportunità della trasformazione digitale per sostenere la competitività dell'impresa, dall'altro è fondamentale garantire la sicurezza e preservarne il patrimonio informativo. Nel nostro paese, infatti, si è registrata una vera e propria impennata di attacchi cyber. più 40% nei primi sei mesi del 2023 rispetto al 2022, quasi quattro volte di più che nel resto del mondo. Sempre il rapporto Clausit ci ricorda come, considerando il periodo che va dal 2018 al primo semestre 2023 a livello globale, gli incidenti siano aumentati del 61,5%, mentre in Italia la crescita complessiva ha raggiunto il 300%. Matteo Lucchetti, direttore Cyber 4.0. La porta d'ingresso risiede molto spesso, nel più dell'80% dei casi, nella collaborazione inconsapevole, e bisogna lavorare su questo ultimo aggettivo, inconsapevole. Bisogna incrementare la consapevolezza, bisogna lavorare molto sul fattore umano e creare una cultura di cyber security diffusa che possa interessare non soltanto più i reparti tecnici delle aziende, ma tutti coloro che hanno a che fare con il digitale. Dino Ferragotto, vicepresidente Confindustria Udine, presidente Digital Innovation Hub. La sicurezza informatica, o cyber security come la vogliamo chiamare, non è solo un fatto tecnologico, prevalentemente un fatto culturale. All'interno delle aziende bisogna instaurare la consapevolezza di come affrontare queste tematiche e soprattutto è un tema di formazione del personale sul corretto utilizzo degli strumenti. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ambiente e territorio, un sopralluogo alla vasta frana di Clauzetto innescata dall'ultima ondata di maltempo è stato compiuto dall'assessore alle infrastrutture Ammirante, una visita richiesta dal sindaco Cescuti, preoccupato per le case a valle della frana. Oggi è il decimo giorno consecutivo di chiusura totale della strada principale di accesso a Clauzetto. Una grande frana minaccia il territorio dai primi di novembre. La situazione è stabile grazie alle condizioni meteo favorevoli, ma intervenire per la messa in sicurezza e la riapertura della viabilità è sempre più urgente, dice il sindaco Giuliano Cescutti, che lancia anche l'allarme per un secondo cedimento registrato nella strada che porta a Vito d'Asio. Dovesse aggravarsi, spiega, porterebbe un isolamento totale del comune, un rischio troppo grande per i 365 residenti e alcune rilevanti attività produttive insediate nel territorio. Lo stabilimento dell'Acqua Pradis, da poco rimesso in funzione da un imprenditore veneto, e la grande cava che estrae la pietra locale. In mattinata c'è stata la visita in municipio e presso le due aziende dell'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Ammirante con il primo cittadino e i tecnici EDR. Sul tavolo l'ipotesi di un nuovo studio di fattibilità per una variante che aggiri l'abitato di Clauzetto e garantisca un tracciato alternativo per i residenti, ma soprattutto per i camion diretti a Pradis. Uno studio era già stato fatto nel 2004, ormai però superato anche per l'esigenza di rivedere la parte di viabilità interessata dalla frana. Clauzetto è un territorio che chiede di essere assecondato nel suo processo di sviluppo, ha concluso Cescutti, e per farlo ha bisogno di infrastrutture urgenti. Clauzetto, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Disputa sull'energia, la legge regionale del 2020 e le controversie tra concessionari in Friuli Venezia Giulia, la posizione del Comitato Tutela delle Acque del Bacino Montano del Tagliamento, che ha tenuto poco fa una conferenza stampa. Una legge regionale del 2020, attuativa di una nazionale dell'anno prima in materia di grandi impianti idroelettrici, prevede che i concessionari debbano fornire gratuitamente 220 kWh per ogni kW di concessione o, in alternativa, la monetizzazione dell'energia fornita gratuitamente da destinare a servizi ed enti pubblici nei territori delle comunità di montagna. Mentre Edison ha denunciato oggi in una conferenza stampa il Comitato Tutela Acque del Bacino Montano del Tagliamento, concessionaria delle centrali del Meduna e del Cellina, adempiuto agli obblighi, A2A, società lombarda che porta gli utili anche ai comuni di Milano e Brescia ed opera sull'asta del Tagliamento, ha ricorso al Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia, ricorso che è stato però respinto. In attesa di un possibile e probabile ricorso a distanza superiore, il Comitato, anche in vista della possibilità che alla scadenza delle concessioni tutti gli impianti passino alla Regione, che potrebbe, come già fatto in Trentino, costituire la società energia Friuli Venezia Giulia capitale pubblico, denuncia una mala gestione della risorsa idrica in Carnia, che A2A però smentisce. Franceschino Barazzutti è il presidente del comitato. Noi siamo a difendere sostanzialmente la legge regionale, perché è giusto che i territori vengano compensati, e rilanciamo le questioni del dissesto idrologico e della mancanza di acqua nei fiumi che A2A con suo comunicato ha negato. Le documentazioni che abbiamo esposto qui, tutte le fotografie, dimostrano che non c'è acqua. Ovvero, se A2A, come dice, è vero, che rilascia il minimo di flusso vitale, bene, lo scopo del minimo di flusso vitale è quello di dare continuità al flusso d'acqua nei fiumi. Se non c'è continuità nel flusso d'acqua, vuol dire che qualcuno, autorità, deve intervenire a che questo si realizzi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:45, uno sguardo al meteo. Abbiamo cielo da poco nuvoloso variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 11. A Trieste 14 gradi, a Udine 14,5, a Gorizia 15,5, a Pordenone 13,5. Nell'area montana a Tolmezzo 11, a Tarvisio 9,5, a Sappada 8 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo, scusate, a Forni di Sopra 12,5, sul Piancavallo 11. In quota sull'Ossari abbiamo 4 gradi, sullo Zoncolan 6 e sulla costa a Lignano 10, a Grado 12. Le previsioni dell'ARPA: oggi e domani avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. È entrato in vigore oggi l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali montati su alcuni tratti delle strade statali del Friuli Venezia Giulia, maggiormente esposti a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. L'ANAS ricorda che l'obbligo sarà valido fino al 15 aprile. Lo stesso obbligo è scattato anche in Slovenia, in pratica su tutto il territorio nazionale. L'unica differenza è che scadrà un mese prima, ovvero il 15 di marzo. In Austria l'equipaggiamento invernale è obbligatorio dal 1 novembre. Sul Carso si ripetono con frequenza gli attacchi di lupi a danno di animali domestici come cani e pecore. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. La presenza dello sciacallo sul Carso sembra ormai consolidata e provata dai numerosi attacchi che gli allevatori di ovini, bovini e asini stanno subendo. Nei giorni scorsi sono apparsi anche degli attacchi che fanno pensare alle incursioni del lupo dal Monte Taiano in Slovenia. Il lupo generalmente spodesta lo sciacallo, ma per gli allevatori non cambia molto perché entrambi puntano alla stessa preda e gli sciacalli nel comune di Monrupino sono così insistenti che il vicepresidente degli allevatori regionali Omar Marucelli, vedendosi decimato il proprio gregge di carsoline, le ha portate in un recinto nel centro del paese e si sta convertendo all'allevamento dei bovini. Ma lo sciacallo, il lupo e l'orso rendono la vita particolarmente difficile anche ai suoi colleghi della Carnia. Il sistema allevatoriale allo stato brado è estremamente difficile e quasi eroico, perché abbiamo da fare col clima, con le intemperie, con le difficoltà orografiche e in più la predazione, perché noi vediamo il lupo nello stesso elenco della biodiversità da tutelare, della pecora istriana, e tutti i bovini che sono inseriti. Allora non capisco il senso di tutti i denari che sono stati investiti da parte della regione nel ripristino, nella tutela di una razza in via di estinzione come la pecora carsolina, mentre sullo sciacallo si fa poco o niente, perché lui ormai non è più a rischio di estinzione, almeno nelle nostre zone. L'installazione di recinzioni elettrificate è tutt'altro che semplice su territori impervi della montagna e l'uso dei cani pastore presenta seri inconvenienti in un ambiente fortemente antropizzato, ci dice, perché il cane pastore di guardia non distingue tra sciacallo o cane. Gli allevatori intanto confidano che la regione vari nuove misure a tutela delle razze da conservare. Monrupino, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Meditare insieme al proprio cane è un modo di raggiungere l'armonia anche attraverso l'intelligenza interna, quella del cuore. Insomma, superare le difficoltà che spesso insorgono tra bipedi e quattro zampe quando l'uomo trascina nella propria vita frenetica anche il proprio fedele compagno. Se ne parla nel libro Mind Dogness, nel quale la biologa Cristina Serra racconta ciò che sappiamo sulle capacità cognitive del cane, ma soprattutto prende in esame emozioni, empatia e teoria della mente nelle due specie. L'autrice presenterà il volume a Trieste alla libreria New Age di Via Nordio alle 18. E ora parliamo di biodiversità con un progetto transfrontaliero. Sentiamo. Un volatile, l'allocco degli Urali, un insetto, la rosalia alpina, le acque di fiumi, laghi e torrenti sono i tre indicatori naturali individuati per comprendere e valorizzare la biodiversità tra Italia e Slovenia, e questo in un progetto transfrontaliero cui partecipa l'Università di Udine assieme ad altri 5 partner italiani e sloveni. Obiettivo della ricerca è quello di conservare e ripristinare la ricchezza degli ecosistemi delle Alpi Giulie e del Carso nella transfrontaliera. Il progetto biennale ha un budget di oltre 740.000 euro nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia 2021-2027. All'Ateneo Friulano è destinata una quota di 140.000 euro. Da parte italiana, oltre all'Ateneo Udinese, partecipano il Parco delle Prealpi Giulie e per la Slovenia l'Istituto Nazionale di Biologia, il Parco Skošianske Jame e l'Università del Litorale. La foresta dell'area transfrontaliera garantisce la sopravvivenza di molte specie vegetali e animali e ha un importante valore economico, un ruolo educativo ed estetico e contribuisce a mitigare il cambiamento climatico. A causa del disboscamento, dei cambiamenti climatici e di eventi naturali imprevedibili e violenti, questi boschi sono in serio pericolo. Molte specie sono minacciate. Tra gli obiettivi del progetto, stabilire approcci innovativi e congiunti di monitoraggio transfrontaliero, rafforzare la consapevolezza delle comunità locali sui servizi ecosistemici, cioè i servizi che i sistemi naturali forniscono a favore dell'uomo, e rafforzare la cooperazione tra scienza e società a livello locale e regionale. Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli. Rocco Papaleo è il protagonista dell'Ispettore Generale di Gogol, in scena ancora questa sera al Politeama Rossetti di Trieste. Tutto il cast sarà presente alle ore 18 al Caffè Rossetti in occasione dell'incontro con il pubblico, al quale interverranno anche Margherita De Michiel e Paolo Quazzolo dell'Università di Trieste. A Proda Gorizia al Verdi il musical Chicago con Chiara Noschese, anche regista, e Stefania Rocca. Questa data unica apre il cartellone eventi della stagione al Verdi di Gorizia. Almira di Trieste è un omaggio a Rachmaninoff. A 150 anni dalla nascita, il penultimo appuntamento del cartellone di Cromatismi 2.0, la stagione della Chamber Music. Sul palco il trio Sceliak, ensemble italiano emergente formato da Emanuele Brilli al violino, Matilde Michelozzi al violoncello e Sergio Costa al pianoforte. Di Rachmaninoff eseguiranno i due trii elegiaci per pianoforte ed archi alle ore 20:30. E ora la pagina dello sport. Basket, serata da non perdere a Udine per gli amanti del basket. L'APU Old Wild West ospita il Carnera alle 20:30, la capolista della A2, l'imbattuta Fortitudo Bologna. Palasport che si annuncia gremito per una delle partite più attese della stagione. I bianconeri arrivano dal successo contro Orzi Nuovi e sono caricati al massimo. Dobbiamo giocare con grandissima voglia e aggressività, dice il vice allenatore di Udine, Gerose, soprattutto con la consapevolezza, aggiunge, che avremo un grande pubblico dalla nostra parte. Da Fortitudo resterà in Friuli anche dopo la partita di questa sera, perché sabato giocherà a Cividale contro la Gesteco, e c'è spazio e tempo ancora per una segnalazione, Anna. Questo pomeriggio alle 18 all'auditorium della Casa della Musica di Trieste il professore di papirologia Nicola Reggiani, ospite del Centro Culturale Egittologico, terrà una conferenza dal titolo Il papiro Tulli, un enigma tra egittologia, ufologia, esoterismo e complottismo. Reggiani ricostruirà la storia di questo curioso documento, oggi generalmente ritenuto falso, rispetto ad un avvistamento di oggetti misteriosi, cerchi infuocati nel cielo di cui fu testimone il faraone Tutmosis III. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Anna Vitaliani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Eugenio Giuffrida e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. 12:54 minuti, la prossima edizione del GR regionale alle 15. A tutti voi grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.